girl. Your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto e un appello da K. Kate, non lo sposare. Non lo l'ha già sposato? Eh sì, non l'ha sposato. Ma no, Kate. Sì. Sono le 5, l'ha sposato stamattina. Si sposano di venerdì in Inghilterra. Ma no, non so. Ma vabbè, dai. Ma così. No, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no. Ma no. Ma cosa vuole Tito? Ma fai finta di niente. Ma come fai finta di niente? Ti ho detto di far finta di niente. Da ieri che ringhia, incazzato ormai nero. Ormai la data prevista per l'invasione si sta avvicinando, quindi abituati. Ma quale data e quale invasione? Ma dai, Drago, ti sei già dimenticato. Ma di cosa? L'invasione dei bassotti geure geure. Sì, ma per ora l'unico bassotto a fare geure geure è Tito, che dà pure fastidio, sempre lì a mordere scarpe. Basta Tito, dai. Vabbè, proviamo a fare il programma con un bassotto geure geure attaccato alla scarpa e occupiamoci di una bambinata che riguarda la Francia. Aia, aia. Cosa? Questo periodo va male tra noi francesi, sì, eh? Sì, no, ma qui non c'entrano gli immigrati, i migranti o gli emigranti. C'entrano i profughi. No. I clandestini. Sì, più o meno. I rifugiati. No. I responsabili. Chi? Il gruppo parlamentare dei responsabili, no? Ah, vedi, puntata del 31 marzo? No, Tito, dai, vabbè, la notizia riguarda un bambino, anzi due bambini, anzi due bambine, anzi due gemelline. Ho capito, precisione, parti da un bambino e tra un po' arrivi a due gemelle siamesi. Ma che gemelle siamesi? Attaccate per il gomito. Sono due gemelle francesi, si chiamano Isa e Lea, hanno 11 anni e vivono con i genitori vicino a Parigi. Il fatto è che sono clandestine. Vedi, allora che c'entrano i clandestini? Sì, però ma non i clandestini come li intendiamo di solito. Il caso di Isa e Lea Menesson è forse unico. I genitori sono francesi e loro invece no, loro sono clandestine. Prova un po' a indovinare come si è potuto creare questo pasticcio. Sono figlie adottive. No, sono figlie dei due genitori francesi. E allora non è possibile. Invece per i francesi è possibile, perché le due gemelline sono cresciute in un utero in affitto, e l'utero in affitto era un utero, ahimè, extraeuropeo, extracomunitario e per la precisione americano. E quindi è successo così. E quindi sono nate negli Stati Uniti, le ha partorite tecnicamente una donna americana. Beh, certo. E in Francia è vietata la pratica dell'utero in affitto, e quindi al ritorno dagli Stati Uniti sono diventate due clandestine. Ma hanno due genitori francesi. Però l'utero era americano, e quel che conta è l'utero. Ma quindi il contenitore conta più del contenuto. Sembra uno scioglilingua, ma è così. Il contenitore conta più del contenuto, e quindi è un bel casino l'utero americano, chi poteva immaginare? Ma il proverbio lo dice: uteri e buoi dei paesi tuoi. Kate, questo è per te. Show. bambini, ricreazione. Uè, ma sapete l'ultima? No, ma come inizi? Cioè, vabbè, già bambino. Il momento intervista che rovina la ricreazione. Poi la sapete l'ultima. Caratterizza la ricreazione. Poi vi interessa. Sì, se vi interessa. I miei genitori stanno pensando di farmi cambiare asilo. Ma no, ma come? Sì, e secondo me lo fanno perché sono gelosi. Ma cosa? Ma di cosa? Allora, io con questa storia qua, di questo asilo, sono sempre la radio, no? Al gruppo su Facebook, ho tanti amici. Insomma, per loro sto diventando una figura ingombrante, no? Addirittura, bambino Alberto. Ma sì, perché si sentono in competizione con me. Ma dai. Però loro trovano altre scuse. Quali? Quali scuse? Che sarebbe meglio mettermi, per il mio bene, all'asilo della stazione. Ma quale asilo della stazione? Ma guarda che ti confondi. Cioè, in Italia non ci sono questi asili alle stazioni come in Francia. Forse a Rouen c'è questo asilo. Sì, dove... però sui temi asilo e stazioni i francesi fanno un po' di confusione. Perché alla stazione di Mentone hanno mandato l'esercito per non dare asilo ai tunisini che volevano andare in Francia. Quindi... Vabbè. Cioè? No, niente, bambino Alberto, niente. Vabbè, basta. Allora, io da in questo momento faccio lo sciopero dell'intervista. Oh, bravo, era ora. Ma perché, ragazzi? Adesso basta, tutte le volte fare questi parietti. Finiamo l'intervista. No, adesso basta. Voi mi dite sempre niente. Attaccate a parlare di cose mai sentite. No. E poi niente se io chiedo qualcosa. E io poi resto qua come un deficiente a guardarvi a bocca aperta. Ma perché fate così? Allora tanto vale che la bocca la tengo chiusa e me ne sto zitto. No, ma se vuoi te la spiego però la cosa, no? L'asilo alla stazione, l'asilo alla stazione è perché così i tuoi genitori possono andare a lavorare, prendere il treno, portarti all'asilo quando vanno appunto a prendere il treno e quando poi tornano a casa ti prendono e ti portano a casa. Sì, comunque, chi se ma ne frega... quella è una balla perché i miei non vanno in treno a lavorare. Lavorano di fianco a casa. Vabbè, sentite, io sapete cosa? Io vado a giocare a palla avvelenata con quel gruppetto lì perché mi sono stufato. No, palla avvelenata. Cioè, ma basta. Ma quanti anni hai? Cosa c'è? 41, cosa c'è? A 41 anni ancora giochi a palla avvelenata. Vabbè, insomma. Vabbè, io intanto me ne sto zitto, eh. Ecco, bravo. Però stai zitto, che se parli che sciopero è. Stai zitto. Sono stato preciso. Ho detto lo sciopero dell'intervista. Non è lo sciopero del silenzio. Sciopero del silenzio. Non c'è il gioco. Il gioco del silenzio. Io posso parlare, ma non rispondo alle vostre domande. Okay. Capito? Quindi, di cosa parli? Diciamo che pertanto così io mi unisco a K a giocare a palla avvelenata, perché di parlare con un bambino in sciopero proprio non ho nessuna voglia. Te le ricordi le regole di palla avvelenata? No, voi andate allora, andate, che altro io non posso, che c'ho male al piede. Ma che palle sto piede anche! Lo so, ma mi fa male! Vabbè, ma è sempre qualcosa che non va, bambino Archistar. Niente. Lei parla per slogan. Lei parla per slogan. Dica, posso parlare? Vuole essere le donne. Lei vuole stare le donne. Posso parlare? Dica. Posso parlare? Lei parla per slogan. Hai visto che ho preso lo kazoo al volo? E tu pensavi che sempre prendi il kazoo al volo, eh? Va bene, venerdì si è sposata Kate Middleton. Perché altro si è sposato il principe d'Inghilterra. Secondariamente si è sposata anche questa ragazza così normale. Ma qui guarda che io sono innamorato di Kate Middleton. Smettila. Guarda che poi ci soffro. Adesso comincerò una corrispondenza con Kate. Ho trovato la sua mail di Kate. Non cominciare. Kate. Va bene, allora salutiamo e ringraziamo tutti quelli che lavorano qui all'asilo con noi: Claudia Carusi, Carmelo Lauricella, Guido Bertolotti. E poi Kate Middleton. Grazie. Vabbè, allora grazie, Kate. Hai fatto la cazzata che ti sei sposata. Però voglio dire, ci sono dei motel. Possiamo vederci nei motel vicino a Buckingham Palace.